Este Luizzo, che non mi ha fatto una nota, no? Che era brutto, era proprio brutto, ma proprio brutto, brutto. Allora una mamma ha chiamato con Together, il corrispondente di Veniamo Tutti Insieme, no? Perché ci pareva un'idea buona, diciamo. Allora l'intro in 7/4, anzi in 7/8, perché sennò il maestro si incazza. 1, 2, 3, 4.